Kita Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siamo mercoledì 17 aprile 2024, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Naturalmente potrete ascoltarci anche con l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it e che vi permetterà di ascoltare Radio Città Fujiko in tutto il mondo. Mercoledì ore 10.30 è l'inizio di una trasmissione che si chiama Città Fujiko Live Club e che si propone di farvi ascoltare un paio di ore di musica registrata dal vivo di ogni genere e di ogni epoca. E Città Fujiko Live Club usualmente inizia con una novità. Quest'oggi invece è una trasmissione speciale, non avremo una novità perché le cose che ci ascolteremo sono già uscite oramai da diversi anni, a parte un paio, e perché è una trasmissione particolare dedicata interamente a una manifestazione che si svolgerà sabato 20 aprile, una manifestazione che oramai è dal 2007 che ogni aprile più o meno, poi vi racconterò altre cose, partita nel 2007 come Independent Record Store Day, l'Independent poi è stato messo un po' da una parte perché sono arrivate le grosse multinazionali, un discorso che faremo anche questo più tardi. La manifestazione, l'avrete capito, si chiama Record Store Day. Come dicevo, sempre in aprile, anche se a causa del Covid nel 2020 e nel 2021 è stato addirittura splittato in due date, una in agosto e una in ottobre per quel che riguarda il 2020, una in giugno e l'altra in luglio per quel che riguarda il 2021. Record Store Day cosa vuol dire? Independent inizialmente, come dicevo, alcuni negozi indipendenti negli Stati Uniti, che è dominata dalle grosse vendite, diciamo, dei megastore che ci sono, Walmart e cose del genere, però ci sono anche negozi indipendenti che sono naturalmente i migliori per quel che ci riguarda, e alcuni di loro si misero d'accordo e in quell'occasione proposero dei concerti nel proprio ambiente e delle offerte, e coinvolgendo anche alcuni musicisti sempre indipendenti, questi ultimi musicisti pubblicarono alcune cose solamente per il Record Store Day. Poi, come vi dicevo, negli anni invece sono entrate le multinazionali che hanno in alcuni casi raschiato il barile riproponendo anche vecchie cose che erano rimaste nei loro magazzini, ma nello stesso tempo poi coinvolgendo a loro volta i propri artisti per pubblicare qualcosa di specifico per il Record Store Day. Molte di queste sono registrazioni dal vivo, che sono quelle che ci interessano. Dal 2010 poi, siccome la cosa è andata per benino, diciamo, è nato anche il Black Friday Record Store Day, che è, come dice il nome, è, si svolge l'ultimo venerdì di novembre, in pratica in occasione del Black Friday, che è la giornata che oramai internazionalmente, visto che tutti noi nel mondo occidentale seguiamo gli Stati Uniti in quasi tutto, e il Black Friday appunto è diventato anche in questo caso ospite del Record Store Day, tutto dal 2010. Una piccola polemica, anzi no, questa la dico dopo. Andiamo avanti e andiamo subito ad ascoltarci della musica con una delle novità, delle cose più recenti. Infatti appartiene al Record Store Day dello scorso anno, è un splendido concerto, come vi dicevo molte di queste pubblicazioni sono live, e è un concerto che si svolse a Melbourne, al Melbourne Park in Australia, il 5 marzo del 1998, rimasto inedito fino al Record Store Day dello scorso anno, del 2023. E i titolari di questa magnificenza si chiamano Pearl Jam e questa è Black. Five horizons revolve. be so long that you deserve much better than me. So I'll be burning all around on the miles in the road, and I'm never going back, and we're never going home. I've been gone too long, I've been less right than wrong, I lost so much blood in the fall. Sweat from my brow, just trying to find a better life for me and my own. Some rest for these tired working fingers. And nobody never gonna tell you the way. You gotta figure it out, boys. It's over the rain and the fools in the night and the heat of the day, when all you ever really wanted was for someone. Poison lips and eyes, baby, sugar and spice, and everything nice. You got them open wounds in a young boy's pride, baby, sugar and spice, darling, and everything nice. Marrow whips, your poison lips and eyes, sugar and spice, everything nice. Open wounds in a young boy's pride. Escono cose anche particolari in occasione del Record Store Day, tipo questo vinile in 10 pollici blu, un colore un po' anomalo per il vinile, ma adesso ne stiamo vedendo un po' di tutti i colori. Titolari di questo brano, che si chiama Film Noir, e anche titolare naturalmente di questo 10 pollici, che si chiama Live at Park Avenue, è una band che risponde al nome di Gaslight Anthem, è una band che viene dal New Jersey. Il leader Brian Fallon è abbastanza, diciamo, amico anche con Bruce Springsteen, che ha partecipato in diverse occasioni all'incisione degli album dei Gaslight Anthem o anche ai loro concerti. Questo brano e questo 10 pollici ci introduce a un'altra piccola particolarità del Record Store Day, cioè molte delle cose che vengono pubblicate, o almeno che venivano pubblicate inizialmente, erano concerti registrati all'interno di un negozio di dischi. È una cosa molto, molto usuale negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, nei paesi civili musicalmente parlando, di gli artisti, le varie bands, per promuovere gli album vanno nei negozi di dischi e fanno dei mini concerti, o se non dei concerti interi, a volte acustici, a volte elettrici. Basta andare lì, comprare l'album e poi puoi entrare a vedere il concerto. E questo, appunto, Live at Park Avenue è stato registrato nell'omonimo negozio di dischi, che è sito in Orlando, Florida. Il tutto era il 23 ottobre del 2008 e questo 10 pollici in vinile blu è uscito per il Record Store Day del 2009. Up sweating in my room, Un altro negozio di dischi si trova a Denver in Colorado, si chiama Independent Record Store ed è stato il teatro di un mini concerto di una band che è molto popolare negli Stati Uniti, si chiama Imagine Dragons. Loro vengono da Las Vegas, sono attivi fin dal 2008, un grande successo negli Stati Uniti. Il 31 agosto del 2012 erano in concerto appunto in questo Independent Record Store, che è in quel di Denver, l'ho già detto, e fra le altre cose hanno interpretato quello che è probabilmente, almeno per quel che mi riguarda, è il loro maggior successo, è un brano che si chiama Radioactive. I'm waking up, I feel it in my bones. bed and a pillow for my head. I've got a bench full of lead and some water for my soul. I got much for my coat and sails and my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and I'm doing fire heater. Oh, and now he's getting out the door, he's only getting sweeter. Legs on my chairs and a head for my hair. Hard enough balance and shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. Two pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly and the lights is on my daily. And nothing's gonna break me down. Ties in my car, I've got most of the means and scripts for the scenes. I'm out and about, so I'm in with a shout. I got a feminine chat, but better than that. Food in my belly, the lies is for my daily. Nothing's gonna bring me down. I'm out of poor. Questo era Paolo Nutini, che malgrado il nome arriva da Paisley in Scozia, chiaramente di origini italiane of course, e è attivo dal 2005, è uno molto eclettico, e in questo Extended Play che è uscito in occasione del Record Store Day del 2010 dimostra appunto tutta questa sua qualità. Si chiama Recorded Live at the Preservation Hall. Preservation Hall è un locale storico situato a New Orleans e si sente dagli arrangiamenti, e Paolo Nutini ha voluto dedicare a questo storico locale appunto questo Extended Play con tanti arrangiamenti e appunto in stile New Orleans, il tutto registrato il 5 di settembre del 2009, lo ripeto, è uscito per il Record Store Day del 2010. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Pencil Full of Lead, Paolo Nutini. I got a close friend of mine here with me tonight, gonna come up and do a song, Mr. Tom Morello from Rage Against the Machine. Come on, Tommy. Tommy also makes great acoustic records in the Night Watchman. Try it. Patrol choppers coming off over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to the new world order. Families sleeping in their cars in the Southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway's alive at night, but nobody's kidding nobody about where we go. I'm sitting down here in the campfire light, searching for the ghost of Tom. Book out of his sleeping bag. Preacher lights up a butt and takes a drag. Waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box deep the underpass. You got a one-way ticket to the promised land. Got a hole in your belly and a gun in your hand. Sleeping on a pillow, solid rock. Bathing in the city's aqueduct. Tom said, Mom, wherever there's a cop beating a guy, river hungry newborn baby cry, where there's a fight against blood and hatred in the air, look for me, Mom, I'll be there. Wherever somebody's fighting for a place to stand, for a decent job or a helping hand, wherever somebody's struggling to be free, look in their eyes, Ma, you'll see me. Yeah. Bruce Springsteen con o senza la E Street Band ha partecipato più volte al Record Store Day nel corso degli anni. Questa che ci siamo ascoltati è un 10 pollici in vinile, naturalmente, che è stato pubblicato per il Record Store Day del 2010. È una splendida versione di The Ghost of Tom Joad insieme a Tom Morello dei Rage Against the Machine, come avete sentito introdotto dallo stesso Bruce, e il tutto registrato al Pond di Anaheim in California il 7 aprile del 2008. Andiamo avanti molto velocemente perché ci sono tantissime cose da ascoltare, ma anche da dire, nel senso che vi farò un piccolo elenco delle uscite per il prossimo Record Store Day, che lo ripeto è sabato prossimo, naturalmente per quel che riguarda le cose dal vivo, visto che questa trasmissione si chiama Live Club e si interessa di musica dal vivo. Partiranno quasi in ordine alfabetico, diciamo, i 1975 con un Live at Gorilla, e i Dandy Warhols con un Live at Levitation, che è un festival che ci ascolteremo fra poco, e i Dead Cat for Cutie, un altro album registrato allo Showbox, i Fleet Foxes con un live al Boston Harbor, i Keen, chi si ricorda ancora di loro, con un album registrato al Paradiso di Amsterdam nel 2004, Pixies, grandissimi, al Red Rocks 2005, ancora più grandi forse, Snarky Puppy con Live at the Band on the Wall, Talking Heads con una registrazione del 77, Television, e questo è il pezzo che a cui ambisco di più e deve essere assolutamente mio, e Television con Live at the Academy, sono decenni che lo sto cercando, esce in versione doppio album. Thin Lizzy, Hammersmith 76, anche questo doppio album, Tragically Hips, un live al CBGB's, un 10 pollici degli U2 con Atomic City, scusate, in due versioni, la prima in studio e l'altra dal vivo, naturalmente a Las Vegas, Wall of Voodoo, una registrazione del 79, Weekend invece una registrazione effettuata al Sophie Stadium, questi sono tre long play, e gli Yes per concludere, una registrazione da Yale del 1971, e ce ne sono tantissime altre. Average White Bands, ma andate a vedere sul sito, si chiama Record Store Day, c'è anche il sito italiano perché usciranno anche delle cose italiane, onestamente non ho guardato e questo è sicuramente un mio fallo, ma andiamo avanti molto velocemente. Come dicevo, Band of Schools arrivano da Southampton, Gran Bretagna, sono attivi fin dal 2002, partiti come trio, adesso sono ridotti a duo, naturalmente in concerto si fanno aiutare da altri musicisti. Questo Extended Play è stato registrato in un negozio di dischi, il Fingertips a Long Beach, Los Angeles, e il 15 dicembre del 2009. Record Store Day 2010 era quello che, per cui è uscito. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, visto che siamo da quelle parti, si chiama Hollywood Bowl. Loro sono Band of Skulls.

Jesus and Mary Chain, naturalmente li avrete riconosciuti all'istante, oserei dire, sono talmente famosi, talmente unici, almeno lo erano all'inizio della carriera, poi ci sono stati tanti che hanno seguito le loro orme, dei fratelli Reed, che arrivano dalla Scozia, dopo aver litigato diverse volte, sciolto la band diverse volte, sono tuttora in giro insieme, speriamo che non abbiano più problemi di litigi o cose del genere. Barrelhounds Live è l'album che ci siamo ascoltati, una registrazione di un concerto in occasione del 30° anniversario del loro album che si chiama Psycho Candy. E il concerto è stato fatto nel 2014, peccato poi che è stato pubblicato l'anno seguente per il Record Store Day, peccato che poi qualche anno dopo, esattamente nel 2022, sia stato, questo è un vinile quindi non più di 40 minuti, nel 2022 è stato invece pubblicato il CD con l'intero concerto da più di 1 ora e 10. Queste sono cose non molto belle per chi acquista dischi come chi vi sta parlando. Il tutto, come dicevo, è stato registrato il 23 novembre del 2014, Just Like Honey, Jesus and Mary Chain, dal Record Store Day 2015. Giusto due parole, vi avevo annunciato una piccola polemica. Il problema, uno dei problemi, è che i dischi che escono per il Record Store Day, solamente per il fatto di avere l'etichetta Record Store Day, costano 4 o addirittura 5 o addirittura 6, se non qualche euro in più rispetto alla media. È un fatto che è dovuto naturalmente all'arrivo delle case discografiche internazionali e che non è molto, molto affascinante per, lo ripeto, chi come me acquista ancora i dischi. Siamo sempre una schiera sempre meno nutrita, sempre più invecchiata, sempre più solitaria. A concludere questa piccola, forzatamente piccola rassegna di brani tratti da album e singoli usciti in occasione di Record Store Day nel passare degli anni, arrivano R.A.M. Loro hanno questo album che è uscito, che si chiama Live, un album, un extended play per meglio dire, che è stato pubblicato qualche anno fa e che si chiama Live in Greensboro, che inizia con questo brano che ci andiamo ad ascoltare, che conclude la prima parte di Recorded Today di oggi, di Città Fujiko Live Club di oggi, con un brano che si chiama So Central Rain. Loro sono R.A.M. suggestion to drive me away. The ocean sang, the conversation still, the bill to sell another tree, the choice was a lie. Seconda parte di Città Fujiko Live Club di oggi 17 aprile 2024, seconda parte che si è aperta non con la novità che vi presento, che vi propongo praticamente in ogni trasmissione, perché oggi non c'è stata novità. Oggi era una trasmissione particolare nella sua prima parte, perché era dedicata a Record Store Day, la giornata delle negozi indipendenti di dischi che andrà in onda, diciamo così, sabato prossimo, giornata dedicata a uscite particolari. E nel 2019 uscì questo 10 pollici in vinile colorato, c'è una foto anche della band che è quella dei Magpie Salute, la band che Rich Robinson, uno dei due fratelli, membri costanti e fondatori di Black Crowes, Rich Robinson la fondò quando, dopo l'ennesimo litigio col fratello, la band si sciolse per qualche tempo, poi sapete che adesso è ritornata, sarà in Italia anche prossimamente, e è un concerto assolutamente da non perdere. Ma questa era una cover, l'avrete riconosciuta, Killing Moon degli Echo and the Bunnymen, in questa versione acustica, però non è dato sapere né dove né quando è stata registrata, e niente, loro erano Magpie Salute, lo ripeto, dal Record Store Day del 2019. Ma come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva la rubrica che si chiama Record Today, che si preoccupa di farvi ascoltare i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Ancora una volta, lo so, sono tedioso, ancora una volta tantissime cose registrate in questa giornata, e ancora una volta il criterio di scelta è di un brano per ogni decade. Iniziamo dal 1970 con un personaggio che è stato molto importante nel campo della musica rock blues, soprattutto americana, diciamo più blues che rock, ma comunque ci dava anche di amplificatore. Lui si chiamava Johnny Winter, veniva dal Texas, da una famiglia di musicisti, e questo lo portò a iniziare la propria carriera solamente 15 anni. Chiunque di voi abbia visto una sua foto se lo ricorda immediatamente, perché era albino, così anche come il fratello Edgar, e questa sua particolarità lo rende subito riconoscibilissimo. E lui ha avuto un sacco di problemi di droga, e da questo la sua carriera ha vissuto fasi alterne. Il suo album, che si chiama Second Winter, ma in realtà è il terzo, solamente il secondo per la Columbia, quindi la Columbia ha voluto questo titolo, uscì il 27 ottobre del 1969, naturalmente in long play, mentre la Legacy Edition, che è quella che interessa a noi, è stata pubblicata come due CD il 17 novembre del 2004. Il secondo dischetto è registrato alla Royal Albert Hall di Londra il 17 aprile del 1970, e andiamo ad ascoltarci uno dei pochi brani scritti da Johnny Winter, si chiama Black Cat Bone, era il 17 aprile del 1970. Yeah. Grande chitarrista, soprattutto con la slide, Johnny Winter, la sua band in quella della Royal Albert Hall di Londra, 17 aprile 1970, con questo dischetto, il secondo disco, il secondo CD che è incluso in questa Legacy Edition di Second Winter, l'album che originariamente dicevo uscito nel 69, ma è stato ripubblicato nel 2004 con questa aggiunta che è sicuramente meritoria. Black Cat Bone è il brano che ci siamo ascoltati. Calmiamo un po' le acque, passiamo al 1983 con un personaggio che, se Johnny Winter, come ho detto, era albino, lui non è che sia proprio abbronzatissimo. Si chiama Joe Jackson ed è un personaggio che arriva da Barton upon Trent nello Staffordshire in Gran Bretagna. Il suo primo album è del 79, quindi è tantissimi anni fa, e però ha una discografia che viene accreditata di volta in volta o a lui o alla Joe Jackson Band. È una discografia quanto mai varia, va dal rock al punk, all'inizio quasi punk, allo slow, allo swing, ha fatto un po' di tutto. Ha anche detto più volte che il rock è morto, però quando poi ha bisogno di un po' di soldi fa degli album rock, ma questo è una cosa mia personale. E il brano che ci andiamo ad ascoltare è tratto da un doppio CD che comprende tre shows che Joe Jackson ha fatto per la serie Live at Rock Palace, la serie della TV tedesca che si occupa di programmare concerti organizzati da lei stesso, l'emittente si chiama WDR e che appunto poi pubblica abbastanza frequentemente, anche se ultimamente mi sembra che abbia un po' smesso, ma comunque ce l'andiamo ad ascoltare. Tutto registrato alla Grugahalle di Essen in Germania il 17 aprile del 1983, un brano molto lento, molto bello, molto tranquillo, si chiama A Slow Song, naturalmente una canzone molto lenta. I hope some of you can understand this. You know, this show is going out to just about every country but England. And I'm certainly not going to speak Hungarian, so you just have to bear with me. This is kind of a romantic, old-fashioned song. They used to call songs like this ballads. This has some quiet bits in it, so this one's called A Slow Song. You see, my friend, and it's late, I'm winding down. Am I the only one to want a strong and silent sound to pick me up and undress me? Oh, Una band molto particolare, durata un paio d'anni solamente, dal 1998 al 2000, anche perché i quattro musicisti che componevano questa Bruford Levin Upper Extremities erano tutti e quattro molto impegnati. Dal nome avrete già capito che c'entravano Bill Bruford, naturalmente batterista eccelso con Yes, King Crimson, parzialmente anche con i Genesis e con altri, e naturalmente il grande Tony Levin, bassista, stick bassista si dovrebbe dire. E il quartetto era completato in modo anomalo, nel senso che non c'era un bassista, ma c'era un trombettista che risponde al nome di Chris Botti e un chitarrista che si chiama David Thorne. I quattro pubblicarono solamente due album, uno in studio e questo dal vivo che ho tra le mani, che vi ho fatto ascoltare, che si chiama Blue Nights. Blue è l'acronimo poi di Bruford Levin Upper Extremities. E appunto queste Blue Nights sono state registrate in diverse occasioni, in diverse epoche, in particolare questo brano che ha il titolo in francese, che spero di pronunciare il meno peggio possibile, si chiama Fin de Siècle. È stato registrato all'Orion Sound di Baltimora nel Maryland il 17 aprile del 1998. Una band anche molto sperimentale, volendo. Sicuramente è durato più a lungo dei Blu che ci siamo ascoltati prima. Mr. Tom Petty, un personaggio che è stato veramente fondamentale per un certo tipo di musica americana, veniva da Gainesville in Florida, è morto purtroppo nell'ottobre del 2017 e ha lasciato un bel vuoto nel campo musicale non solo americano, appunto. La sua carriera si è svolta alternativamente, diciamo così, fra album accreditati al solo Tom Petty e invece album accreditati a Tom Petty e Heartbreakers. Wildflowers era un suo solo album che è stato pubblicato nel novembre del 1994, mentre un altro quadruplo CD denominato Wildflowers and All the Rest, vuol dire Wildflowers e tutto il resto, è uscito postumo nell'ottobre del 2020. Sono quattro CD, il quarto è totalmente live, registrato in diverse occasioni, in diverse epoche anche in questo caso. E il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato al Vic Theater di Chicago il 17 aprile del 2003. In particolare si chiama Wake Up, Mr. Tom Petty. Spend your life dreaming, running around in it's wake-up time. Time to rise and shine. Well, if he gets lucky, a boy finds a girl to help him to shoulder the pain in this world. And if you follow your feelings, you follow your dreams, you might find the forest there in the trees. Aprile 2003, accreditato al solo Tom Petty, questo brano live tratto da Wildflowers and All the Rest, ma come tutto il resto di questo quarto dischetto che è completamente live, lui è sempre accompagnato dagli Heartbreakers, anche se non sono accreditati. Comunque Wake Up Time è stato registrato al Vic Theater di Chicago il 17 aprile del 2003. A concludere Città Fuji Live Club e Ricordi Today di oggi arriva una band da Duluth, Minnesota, si chiamano Trampled by Turtles, ma prima di introdurre il loro brano vi voglio ricordare innanzitutto sabato il Record Store Day, un sacco di uscite interessantissime. E seconda cosa, vi devo delle scuse perché la volta scorsa, preso da un attimo di vecchiaia, diciamo così, non ho salutato a dovere e ho dovuto interrompere un brano che è una cosa che odio assolutamente, per salutare. Oggi lo faccio con tutti i crismi perché vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25 dai 103.1 MHz in modulazione stereofonica di Bologna. Il tutto naturalmente che si propone di farvi ascoltare musica registrata dal vivo di ogni genere e di ogni epoca. Vi ringrazio naturalmente per l'ascolto. Prima però vi devo introdurre questi Trampled by Turtles, che è una band attiva dal 2003 e che praticamente in città, nel senso che loro vengono dal Duluth, che è vicino a Minnesota City, ed è fra l'altro Duluth la città natale di Bob Dylan. Chiusa parentesi, c'è un locale che si chiama Live at the First Avenue, e in questo album è stato registrato questo album che si chiama Live at the First Avenue, un combo, cioè il CD e c'è anche il DVD. Il tutto è avvenuto il 17 aprile del 2013, quindi concludiamo Ricordi Today e appunto Città Fujiko Live Club con questi Trampled by Turtles e la loro Bloodshot Eyes. Ciao a tutti da Nevio. Thank you. It's empty when you want it. Just a big empty hole. And I tried everybody. Every pill that I but time, baby, it's time. It works better than wine. And blood shot you do.